Pane, burro, rock and roll, sono le 8, spaccate! Siamo svizzeri, ragazzi, svizzeri! Pane, burro e rock and roll! La tua colazione rock, benvenuti! La tua colazione rock! Benvenuti anche voi che vi siete svegliato adesso, bravi! Complimenti, Vi sembra il caso? Rock FM! Seconda ora di diretta con un sacco di sorprese, il nostro film di riferimento, il film che ci tiene compagnia. Abbiamo iniziato ieri il viaggio con balle spaziali, parecchia carne da gettare al fuoco. La combinazione è 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5. Allora la combinazione è 1 2 3 4 5. È la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia! È la combinazione che un idiota userebbe per la valigia! Allora, ha funzionato? Dov'è il re? Ha funzionato! Abbiamo la combinazione! Magnifico! Adesso possiamo prenderci tutta l'aria fresca del pianeta Druidia! Qual è la combinazione? 1, 2, 3, 4, 5, signore! 1, 2, 3, 4, 5! Sì, signore! È sorprendente! È la stessa combinazione della mia valigia! Preparate Spaceball One per una partenza immediata! Sì, signore! E cambiate la combinazione della mia valigia! Sì, signore! E beh, che c'è? Sicuramente siamo dei rocker, lui certamente lo è, come da contratto il nostro rocker di riferimento, Roberto Fricantoni da Bologna, un uomo che il rock lo ha vissuto in prima persona. E il rock, come tutti sappiamo, è fatto anche di parole, le parole dei testi, i testi delle canzoni rock, le parole particolari, le parole ribelli. Eccole lì, l'idioma rock di quest'oggi. Continuiamo a costruire il vocabolario di Pane, Burro e Rock and Roll. Mi dica la parola rock di quest'oggi. La parola rock di quest'oggi, attenzione, è un verbo ed è pestare. Ah, oh, finalmente qualcosa di tranquillo, la prego! Pestare. Con il verbo pestare intendiamo picchiare ripetutamente. Ad esempio, io pesto, tu pesti, egli è pestato. Bene. Gioco antichissimo in voga nel paese di Pestum, dal quale nei secoli si è diffusa l'usanza in tutto il mondo. Esercizio fisico praticato dalla banda motociclistica dei Pistoni Roventi. Resto basito dalla spiegazione di quest'oggi. Lei si sta arrampicando sugli specchi, lo sa? Sì, anche perché sono troppo scivolosi. Avrei tanto voluto saperlo, ora lo so, grazie. È stato un piacere. Qui dal paese degli specchi è stato un piacere. messi in passetta, arriviamo alle 8 e 10 minuti primi. C'è il nostro Eric Clapton che se la bussa alle porte del paradiso. Knocking on Heaven's Door. Allora, molti di voi ci chiedevano allora com'è andata con i dati Audiradio, quindi i dati che dichiarano pubblicamente quanti ascoltatori hanno le frequenze radiofoniche di tutta Italia. È andata bene, siamo in crescita, ci sono anche, cioè, insomma, qualche piccola soddisfazione che iniziamo a toglierci. Un saluto agli amici di Radio Rock di Roma, presi per tanti anni, sono stati sopra loro nei rilevamenti, da ieri ci siamo sopra noi, e ci tenevo a aspettare a svelare questi dati perché volevo dirli a lui, Andrea Patente 147. Ciao Daniele, è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Il merito ovviamente è di tutti gli altri radioascoltatori, però tu sei quello che con giudizio e con sofferenza ci aiuta a studiare la concorrenza, quindi rinuncia a dirette di pane, sì, burro e rock and roll per studiare gli altri, ed è grazie al tuo servizio che continueremo a crescere sempre di più. I dati ci hanno dato ragione, quindi. I dati ci hanno dato ragione, caro Andrea, ma sappilo, io non punto a prendere Radio Rock Roma, no, io punto a prendere Radio DJ, cioè mi sembra che dobbiamo puntare alto, sì, noi, no? Puntare altissimo, ma infatti direi Radio DJ e non solo. Anche le altre 105 le prendiamo tutte. Voi direte, ma come potete fare? Voi avete delle frequenze locali, loro ce l'hanno network. Sì, facciamo. Ma noi lo facciamo perché spacchiamo tutto, quindi non c'è problema. Allora, Andrea settimana scorsa ha studiato la concorrenza, diciamo era concorrenza tranquilla perché erano radio, però, con tutto il bene che vogliamo alle radio piccole, però erano radio cittadine. Quest'oggi andiamo sul difficile, Sì, quest'oggi vogliamo scontrarci con il ripito del coniglio, quindi con Radio 2, con io tutto il popolo italiano. Ne approfitto per salutare il mio amico Satana, è un amico di Pisa, che dice che la mattina non ci ascolta perché sente il ruggito del coniglio. Quindi lo dedico a lui questo intervento, ok? Fa male. Tra l'altro c'è uno sbalzo di ora, nel senso che il ruggito comincia alle 8 e finisce alle 10, mentre invece... Quindi 7-8 gli teniamo ancora testa. Quindi Satana, se vuoi, tra 7 e 8. Però adesso è già 12 minuti che hanno attaccato. Mannaggia. Esatto. Okay. Allora, vabbè, i conduttori Antonello Dose e Marco Presta sono i due conduttori del ruggito del coniglio. Diciamo che è un contenitore di tantissime rubriche. Sì. Ci sono una marea di rubriche, che ad esempio il cavaliere del coniglio, lo chiameremo coniglio, il collega scollegato, e magari poi con qualche esempio le spieghiamo. Sai che mi viene in mente che qualche rubrica potremmo anche rubargliela. Ma secondo me, qua io la butto lì, ma secondo me qualcuno ci ha copiato, via copiato. Spezzo mille lance a favore del ruggito del coniglio, che è in onda da ben più di noi. Però... Tu dici, però il dubbio viene. Che dubbio? Vabbè, per esempio, Mister Trombetta. Aia, eccolo qua. Esatto, loro hanno il verso del coniglio, che è un pupazzino, il classico rumore del pupazzino. Sì, chicco. Sarò? Esatto. Beh, dai, è un classico della radiofonia, dai, non stiamo qui a... Vabbè. Però, tu dici... Però il dubbio viene, comunque... Beh, Mister Trombetta c'era già da prima di pane, burro e rock and roll, Vabbè, infatti. Quindi. Va bene, passiamo oltre, dai. Allora, per esempio, una cosa carina che loro hanno è innanzitutto fare l'intervento di tanti collaboratori, un po' come del resto. Ma ascoltatori o collaboratori? Tutte e due. Allora, ci sono i collaboratori fissi in trasmissione, e poi ci sono gli ascoltatori che vengono proprio coinvolti tantissimo durante la trasmissione, hanno addirittura un numero verde che possono chiamare. Io il numero verde non ve lo posso dare, ragazzi, mi spiace, però posso richiamarvi io. Infatti, è uguale. È quello che faccio. Facciamo più o meno. E quindi loro lanciano un sacco di sondaggi partendo da dei contesti di attualità, spessissimo anche di politica, insomma. Sì. Quindi partono comunque da la rassegna stampa Coniglia. La rassegna stampa Coniglia, e poi da qui lanciano magari diversi sondaggi sui quali poi gli ascoltatori possono intervenire. Senti, io so di per certo che il livello dei nostri radioascoltatori è imparagonabile anche a Radio 2. No, assolutamente. No, dillo, no, ma onestamente, cioè, però tu Andrea pendi un po' troppo adesso. Infatti, io sto dicendo questo, che allora a livello di struttura del programma, numerosi collaboratori, un sacco di rubriche, eccetera, va bene, è più grande, è più strutturata. Sì. Però poi devo dire che quando sento gli ascoltatori, Carla che fa gli uomini nudi non ce l'hanno. Loro la nostra portinaia Carla l'alta. No, Rosy era quella. Carla non ce l'hanno. No, non c'hanno uno che studia la concorrenza. Non c'hanno un camionista che fa vedere le donne nude, insomma, non ne hanno di cose. Cioè, veramente non hanno mai fatto i Beatles in italiano. No, e allora ce li mangiamo. Non ci risulta. Allora ce li mangiamo. Diciamo che nel senso hanno un bel plan di rubriche, questo sì. Senti, però in questi primi giorni di studio, poi ci risentiamo in settimana, un'altra puntata. Ma insomma, onestamente, qualcosina che potremmo, diciamolo, scoppiargli spudoratamente, magari cambiamo un po' il nome e la rifacciamo noi. C'era qualcosa di interessante. Sì, sì. Guarda, c'era una carina, è il No Sfigato. Il No Sfigato è praticamente un ascoltatore che descrive un suo episodio, una sua esperienza sfigatissima. Quindi l'ascoltatore chiamava e descriveva un episodio in cui gli capitava qualunque cosa. Beh, bel nome, ma potremmo farla in qualche altro modo. No, ma infatti. Senti, un'altra domanda stupida, la butto lì, la musica, gli strappiamo le orecchie. Sì, no, beh, la musica non ce n'è. Poi comunque ci sono anche diversi interventi all'interno di notiziari, eccetera, quindi pubblicità. Okay. Andrea, ti lasciamo ancora con il ruggito del coniglio, tu vai avanti ad ascoltarli e ce ne renderai conto in un'altra puntata. Esatto. Tanto vinceremo noi. Non c'è dubbio. Ciao. Ciao a tutti. Lord, come to town, I'm gonna jump down. U2, compagnia di B.B. King. When Love Comes to Town. 8 e 20 minuti primi. Ci avviciniamo all'appuntamento quotidiano con il test attitudinale. Anche quest'oggi per tanarvi, per scoprirvi, per capire se siete dei veri rocker oppure no. E in realtà per diventarlo comunque, perché si impara ascoltando Pane, Burro e Rock and Roll. Siamo degli sbruffoni, è vero, ma siamo fatti così, che ci volete fare? La nostra battaglia Davide contro Golia ormai è stata dichiarata, quindi non possiamo tirarci indietro. Tra l'altro anche i vostri commenti sono da sbruffoni. Io sgrido Andrea, che sembra un po' troppo patteggiare per noi. Invece da buon giornalista, Andrea, Bart, a parte che non sei un giornalista, quindi effettivamente puoi fare quello che vuoi, o dovresti cercare di essere un filo più imparziale, eh? Chiedo scusa a Rosy per averla confusa con un altro nome via SMS. Rosy è l'amica che ci fa vedere gli uomini nudi. Via SMS dice: la prossima volta che sbagli vi faccio vedere il calendario dei lottatori di sumo. No, grazie. Un appello ad Andrea: torna sulla retta via, torna a sentire il Rock FM, lascia ascoltare le altre radio. No, ma amico, guarda che glielo abbiamo chiesto noi di farlo, porratin. Saluti a Paolo, l'unico programma che avrebbe potuto battervi su musica e rubriche sarebbe stato Aria Protetta. E le altre radio sono radio di chiacchieroni, parlano sempre, bla bla bla bla, c'è solo Rock FM, Mirko. Beh, Mirko, anche noi, a proposito di bla bla bla, insomma, ci diamo dentro abbastanza. Rita ha un rigurgito nostalgico, vorrebbe riascoltare la sigletta di Frigidaire dei Marta sui tubi. Mannaggia, tutte le volte, siete sempre in tantissimi a farmi questa richiesta. Giuro, prometto, spero, giuro che prima o poi ve la metto su internet. Devo ritrovarla perché non la sto più trovando neanch'io. Allora, tornata da Londra ieri e catapultata in coda per andare a lavoro. Consolatevi come solo voi sapete fare. Vale da Genova. Oh, Vale, cerchiamo di tenerti compagnia. Di traffico ce n'era un'altra molto carina, eccola qua. Un ligure in trasferta a Milano che con orgoglio sta attuando la sua vendetta ligure contro Milano. Ovvero commenta: sto intasando il traffico di Cusano attardandomi a curiosare, menandomela ai semafori come se fossi un turista. E se la ride Marco. Mi piace molto questa cosa. Criminale, scrive un altro. In una mattina di sole con le montagne di fronte, Born to be Wild, viene voglia di tirar dritto. Fanculo al lavoro. In Valtellina a farsi i pizzoccheri, Steve. Ragazzi, organizziamo una giornata così di bigiata collettiva? Secondo me bisognerebbe farlo. Dovremmo individuare un giorno che decidiamo tutti di non far niente e venite tutti qua. Lì, al posto dell'omino che corre, sarebbe carino, no? Va bene, insomma. Io l'ho lanciata lì la proposta alle 8.23, così d'amblè, vediamo. Preparatevi, rilassatevi con questa The Best of My Love targata Eagles. E subito dopo, attenzione, carta e penna, c'è il test attitudinale. Quello ce l'abbiamo solo noi, eh. E non copiatecelo il test attitudinale, se no vi taniamo, eh. E poi ci si arrabbia. E se ci arrabbiamo, ehi. Every night I'm lying in bed, holding you close in my dreams, thinking about all the things that we said, coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come out too. Look at the way that we live, wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. was a quiet night, and I would be alright if I could go on sleeping. But every morning I wake up and worry, what's gonna happen today? See it slipping away. You know we always had each other, baby. I guess that wasn't enough. E se qualcuno là fuori volesse una patente da vero rocker, così gliela butto sul tavolo. Se la deve, ahimè, se la dovrebbe, ahimè, guadagnare, sì. Conquistare. Azzeccando i nostri test attitudinali, pronti pronti per quello di quest'oggi. Esatto, carta e penna, libretto degli assegni, no? No, libretto degli appunti. Quella è un'altra rubrica, ne parleremo più avanti. Esatto, comunque iniziate a prepararlo, cari. Quello amici. Degli assegni, quello sì, degli sì, assegni. Può sempre far comodo. Quest'oggi vi chiediamo a cosa ci si riferisce, così, nell'ambiente rock, con il termine, tra virgolette, diavoletto. Lo sapete? Qual è il termine che lei usa, scusa? Diavoletto. Tre ipotesi possibili. La A. Diavoletto sarebbe, potrebbe essere, giusto, l'amichevole appellativo, il vezzeggiativo, sì, con il quale le rockstar definiscono le loro groupies. Ah, le ragazze aiuta gruppi. Ehi, diavoletto, vieni qui. Esatto, potrebbero dire. Bella pupetta diavoletta. Oppure, ipotesi B. Diavoletto è il celebre club newyorkese dove le prime band di punk rock americano iniziarono a suonare. Ah, lo storico diavoletto. Oppure, ipotesi C. Diavoletto è il soprannome della chitarra modello SG della Gibson. Oh là là. La A, la B o la C? La soluzione, come al solito, a dopo. Le risposte esatte ve le diamo tra poco.